I grandi non piangono mai. Devi essere più forte, quante volte me l'hai detto. Il numero di lacrime che io ricevo non è mai proporzionale al numero di lacrime che verso. C'eri quando ero giù, prometto non lo farò più. Ho fatto un mucchio di stronzate, per fortuna c'eri tu. Tra i miei problemi con la droga, crescere tre figli piccoli senza chiedere aiuto e farlo da sola. Ma tu mi hai insegnato cos'è il rispetto. Ho incontrato mille bastardi, ma quello non l'ho mai perso. Tu sei stata la prima a dirmi di farlo, la prima a credere in me, prima ancora di me stesso. Dimmi che devo fare, mi hai detto ce la puoi fare. Una stella che vive di luce propria continua a brillare. Io non dimentico il passato, come fare a negare il cuore alla persona che me l'ha dato. Imparerai a crescere, dormirai con la paura del buio. Saremo io e te, tutto andrà bene se starai con me. Non importa in che parte del mondo sarai, io ci sarò sempre, lo sai. Nessuno meriterà le tue lacrime. I grandi no, non piangono mai. Pensi davvero che io no, non ti riconosca? Per tutti i ruoli che hai interpretato meriti un Oscar. Ed io che mi chiedevo quante maschere avessi, eri tu la mia miglior nemica, la mia peggior rivale. Eri la mia insegnante, Babbo Natale, il portiere che ti apre se dimentichi la chiave. La stessa che mi ha insegnato a sbagliare. Ha interpretato tutti i ruoli del mondo prima di essere una madre. Le ore diventano i giorni diventano anni. E già sei grande, non puoi comprare il tempo, nessuno lo riavrà. Scrivo canzoni da quando non ho più memoria. Ho capito che preservare i miei ricordi è la mia priorità. Ora che giro per il mondo realizzo il mio sogno. Ricordatevi che anch'io sotto i tatuaggi un cuore. A mio figlio dirò che i grandi non piangono mai, o almeno se non dopo questa canzone. Imparerai a crescere, dormirai con la paura del buio. Saremo io e te, tutto andrà bene se starai con me. Non importa in che parte del mondo sarai,